Disperso in un senso vuoto, coperto da un urlo muto, selato dal bianco e il nero, l'inganno di un falso vero, sostanza di sola essenza, il vuoto di ogni assenza, la voce di l'inganno di un falso vero ascolto.